La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Nel nostro percorso quindicinale nel mondo della scuola incontriamo finalmente anche un genitore, ancora non ci era capitato, il signor Gianluigi Naletto, che è presidente del Consiglio d'Istituto dell'Opera Monsignor Liviero, una realtà che a Padova, vicino alla Basilica del Santo, mette insieme una scuola paritaria, una scuola primaria, insieme al contributo delle piccole ancelle del Sacro Cuore. È una realtà piuttosto piccola, dove c'è una sola sezione per ogni classe, e quindi con un rapporto di numero tra insegnanti e studenti piuttosto basso. Questo facilita evidentemente il cammino e il percorso educativo. Abbiamo chiesto al signor Naletto innanzitutto di dire qual è a suo parere il valore della presenza di una scuola del genere nel contesto cittadino di Padova. Il valore sociale di una scuola come la nostra, io credo sia intanto l'esserci in un centro cittadino, di una importante realtà complessa, per la costruzione di reti corte, reti lunghe, per dare un contributo non solo educativo ma anche appunto sociale, di presenza, di identità, di storia, ma anche di progettualità. La nostra è una realtà che si propone di formare non solo degli studenti ma anche dei cittadini, quindi tutto l'aspetto civico in termini proprio di educazione civica è importante per noi, soprattutto per la crescita proprio a 360 gradi dei ragazzi. Ecco, lei parla da genitore, da presidente appunto del consiglio d'istituto, quindi lei vive di fatto un doppio ruolo appunto di padre, ma anche in qualche modo inserito in questa realtà educativa. Su questo, cioè, come si vive questo ruolo, possiamo dire rafforzato nel suo caso, perché no, non è per tutti avere questo doppio ruolo? È un ruolo certamente impegnativo, ma anche che arricchisce, perché oggi a mio avviso l'essere genitore richiede andare oltre i confini della propria famiglia, della propria casa, in un mondo dove di fatto non esistono più confini e dove tutto è in relazione. Ecco che allora la possibilità, in questo caso è incarnata da qualche anno, di presiedere dal punto di vista della rappresentanza genitoriale una scuola rappresenta anche un'occasione per intanto capire i nostri figli e soprattutto le generazioni che verranno, e soprattutto ecco anche individuare un contributo possibile per dare quel valore aggiunto che un genitore oggi dovrebbe dare in termini sia valoriali, quindi cose che contano, che valgono per la propria vita e per la vita anche delle persone che ci circondano, e poi anche i contenuti di conoscenza, che non è soltanto quella che si impara sui libri, ma anche quella esperienziale, appunto di vita, di storia, ma anche di futuro. Insomma, un mix che ancora una volta ecco, riafferma quanto importante sia il ruolo del genitore impegnato nel tessuto nel quale lui stesso, la propria famiglia e soprattutto i propri figli vivono. In questo mondo appunto in cui la parte diciamo cattolica praticante è ormai ridotta a percentuali minime, quanto è difficile difendere questa scelta appunto nel contesto civico e civile, nel dibattito in generale? Ma è vero, i cristiani oggi sono minoranza, anche nel nostro Veneto, anche nella nostra Padova, diremo. A maggior ragione l'impegno è allora quello di sforzarci, ecco, a dare testimonianza di ciò che siamo e di ciò che potremmo essere se effettivamente interpreti in fondo, ecco, anche del messaggio, nel nostro caso, evangelico, no? E dalla nostra abbiamo un esempio straordinario che è Gesù Cristo, primo interprete e poi anche nel contempo padre e figlio, quindi un qualche cosa che reinterpretato anche secondo i bisogni e le criticità del mondo contemporaneo può e deve vedersi protagonisti. Le sfide che abbiamo sono date anche da un'accelerazione dei processi enorme, no? Per cui ritengo che la scuola oggi cattolica abbia ancora spazio e abbia di fronte una pista importante ancora per correre e per far correre anche le persone, non solo i ragazzi, quindi gli studenti, ma anche le famiglie. L'esperienza che ho io è che l'importanza appunto dell'accompagnamento delle famiglie nei 5 anni e ancora prima nella scuola dell'infanzia sia importantissima proprio per poi la costruzione di quella che potrà anche essere una filiera più lunga educativa, sempre all'insegna di un'ispirazione cattolica, che poi è quella della cultura, dell'esaltazione della persona nella sua integralità, nella sua anche complessità, nella sua limitatezza, ma che ha una prospettiva, che ha quindi anche una speranza di miglioramento continuo e che ha anche fra sé un grande insegnamento che è la possibilità di vivere fino in fondo dei talenti che sono innati e che appunto attraverso l'educazione devono essere scoperti, tirati fuori ed elevati poi a concretezza per una pienezza di vita. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.